speciales, nessuno lo può superare. Veloce e sicuro, va come un siluro, è sensazionale, è Speedy Gonzales. In qualche secondo fa il giro del mondo, lo vedi passare e sembra volare. Dai roditori riceve gli onori, fa strage di cuori ovunque in città. Arriva, arriva, arriva, arriva col suo sombrero. Arriva, arriva, arriva, arriva portiere di nero. Arriva, arriva, arriva, arriva che velocità bestiales. Arriva, arriva, arriva, arriva è Speedy Gonzales. Spedito, è un lampo partito, allegro e gioviale, soprattutto cordiale. Adora la siesta, gli piace far festa, non dimenticare è Speedy Gonzales. In qualche secondo fa il giro del mondo, lo vedi passare e sembra volare. Dai roditori riceve gli onori, fa strage di cuori dovunque in città. Arriva, arriva, arriva, arriva col suo sombrero. Arriva, arriva, arriva, arriva portiere di nero. Arriva, arriva, arriva, arriva che velocità bestiales. Arriva, arriva, arriva, arriva è Speedy Gonzales. Arriva, arriva, arriva, arriva col suo sombrero. Arriva, arriva, arriva, arriva portiere di nero. Arriva, arriva, arriva, arriva che velocità bestiales. Arriva, arriva, arriva, arriva è Speedy Gonzales. Speedy Gonzales.